Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Un'informazione, ci dicono che la replica della Caccia all'ideologico quotidiano sarà garantito il mercoledì sera alle 24. Dopo il notiziario. Bene, grazie a Cristiano Valli per la consueta regia, grazie a tutti voi per la vostra attenzione. E l'appuntamento viene confermato per domenica prossima, alla medesima ora. Buona settimana.